12 settembre del 2018, ore 21:10, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi, per l'appunto 12 settembre 2018. Questa è Onda Rossa. Il cui sito è www.ondarossa.info, il telefono 0649 1750. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info, e i più affezionati sanno che questo spazio ha anche una pagina Facebook che è Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder, dove domani, oltre che sul sito, comparirà il solito podcast e playlist. Salutiamo Alessandra qui da Roma, Maya dalla Sardegna, Antonio da Firenze, ancora da Roma Like Wake è il medico della peste, eccetera eccetera. Andiamo subito ad iniziare. E lo facciamo riproponendo per la seconda volta questo interessantissimo lavoro che vede insieme Zoo, insieme a Current 93 e quindi David Tibbett. Un album lungamente atteso anche dal sottoscritto, che porta il nome di Mirror Emperor, che esce per la House of Mythology, un'etichetta emergente dove ultimamente gli Zoo si sono, non dico accasati, ma quasi, quantomeno questo album è uscito per appunto con questa etichetta inglese. Bene, oggi ci ascoltiamo altre tre tracce, esattamente The Heart of the Mirror Emperor, The Teeth of the Mirror Emperor e The Absence of the Mirror Emperor. Salutiamo anche il buon Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Allegiance, the sun or the moon. Truly whispered. Seven steps in her blue heart, more morning than light. For him in the tower land, upstairs in the marble heaven, not fixed by the state of days, the dust and the market, the hatred in the ship of cruelty, in the blood boat set sail. To Jesus the moon gains the face before that first sunset or moonbow. But go, my dears, to the wishbone, the heart of the mirror emperor, the hope of his new night. Of the mirror emperor, glass to the reach of the bitter stars. Set like a sword. credo uno degli apici di questo 2018, di questa prima parte del 2018. Trattasi di Mirror Emperor, questa collaborazione efficacissima tra Zoo e Current 93, naturalmente nella persona di David Tibbett. Un pezzo di storia, David Tibbett, in attività da molti anni, da 30-35 anni, e ancora conserva un'intensità non indifferente. E naturalmente anche gli Zoo fanno la loro onorosissima parte. Infatti l'arpeggio chitarristico era di Massimo Pupillo, insieme al basso. La parte elettronica curata da Luca Mai, le percussioni, sempre la chitarra di Stefano Piglio, e poi gli archi di Andrea Serapiglio e Luca Tilli. Il tutto, ricordo, esce per la House of Mythology. Questo album è naturalmente molto a cavallo del neo folk, ma con qualche apertura sperimentale, che in passato ha anche intrapreso lo stesso David Tibbett, e che fanno anche ultimamente i Zoo 93. Pensiamo a Jethro, l'ultimo loro lavoro. Bene, andiamo avanti. Salutiamo ancora Luciano di Roma, FM Genovese, progetto elettronico qui di Roma, e anche Nicola Locci dalla Sardegna, altro musicista che conosciamo come Stigmate, che abbiamo apprezzato in passato. Rimaniamo in Gran Bretagna. Anche la scorsa settimana l'abbiamo, come dire, messi uno appresso all'altro, Zoo 93, ma anche C33, una emanazione parallela, trasversale, se vogliamo, dei Test Department. Un solo lavoro comunque per questo C33 di Paul Jermoxy, si chiama Ballad of Reading Goal, un album comunque diverso dai normali canoni dei Test Department, un album molto più neosinfonico e martial, con molte parentesi dark ambient. Si ispira da uno scritto di Oscar Wilde, e appunto oltre Paul Jermoxy c'è anche Rod Corrigan, che dà una succosa mano a Paul Jermoxy. Stasera ci ascoltiamo Movement the Second Iron Town. We'll be right back. Confermo che effettivamente è una delle sezioni più ipnotiche di questo album di Sit and Tree, questo Ballad of the Reading Gaol di Cacofonietta, scritto tra parentesi. Un'opera uscita inizialmente nel 2011 e ristampata quest'anno con due extra tracks. Salutiamo il buon Marcello, se non sbaglio proprio qui da Roma, e Antonella dalla Sicilia. Marcello giustamente sottolineava il valore, tornando un attimino a Zoo 93, dell'album di qui sopra, che anche a me ha fatto ricordare in parte gli splendori di Thunder Perfect Mind e altre pagine gloriosissime di Current 93. Salutiamo di nuovo Alessandra. E noi arriviamo qui in Italia, Valerio Zecchini e i suoi Post Contemporary Corporation, una delle realtà interessante soprattutto negli anni passati, anche se sembra che Valerio si stia muovendo verso nuove uscite. Ci contentiamo per adesso di questo Eroismo e Pagliaccismo, che contiene rarità e inediti dal 1997 al 2008. Ci ascoltiamo un remix di Dario Parisini, che remixa per l'appunto Apri la porticina e lasciami passare, e poi ci sarà Uccel di Bosco. Toccami, toccami che sono malato, così ti infetto. Leccami le piaghe, così, come un cane, sì signor, venga ya, così ti infetto. E non sentirai più questo desiderio impellente di parte una pentaloplastica per soddisfare i gradi di miglioratori di luce. E le persone di buon cuore, le persone di buon cuore, se ci sono, ci faranno da palude. Toccami, toccami. Se tocchi il tasto senza torace, che dice vita di dai di noi vanno di noi vai tornare. Se mi tocchi sulla tempia un'altra voce che dice guarda non dirmi. Se mi tocchi sull'inghine un'altra ancora che fa una fidelca spacca in te buste cure. Bye. 21.40, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, queste prove tecniche di trasmissione. Andremo avanti fino alle 22.30 circa. Intanto sta scemando Valerio Zecchini sui post Contemporary Corporation, questo eroismo e pagliaccismo. Rarità e inediti. 1997-2008, un Valerio Zecchini attualmente residente a Manila, nelle Filippine. Lo salutiamo, anche se adesso è mattina lì e credo non sia possibile che in questo momento sia all'ascolto. Le folli declamazioni, ma nel senso buono, di Valerio Zecchini, che lasciamo e andiamo nel territorio della Nesplay Sounds, label e group di Raffaele Pezzella, che ha il merito di promuovere e farci conoscere dei musicisti spesso sconosciuti, ma che poi vengono resi interessanti e appunto conosciuti dallo stesso Raffaele, che risalutiamo. Stasera è il turno di Michael Bonaventure, direi una delle scoperte più interessanti degli ultimi tempi, con questo Works 2008 e 2017. Questa sera ci ascoltiamo due estratti: Doxology, Carillon numero 2, musica e Counters. Di Berlusconi, musica per il funerale di Berlusconi, musica per il funerale di Berlusconi, musica per il funerale di Berlusconi. Thank you. ancora Michael Bonaventure e ho letto male i titoli. Questa che va adesso è Encounters e dopo ci sarà Terrestrial Ode. evocativo, profondo, allucinogeno, sono una parte degli aggettivi che sono stati usati a proposito di Michael Bonaventure, una delle più interessanti scoperte che devo dare atto a Raffaele Pezzella. Lui e Globo Oscuro, devo dire, sono state tra i tanti tanti interessanti progetti che ho conosciuto, ma personalmente Michael Bonaventure e Globo Oscuro hanno qualcosina in più, senza nulla togliere anche allo stesso Sonologist di Raffaele Pezzella, grandissimo progetto italiano. Questo dunque era materiale dal 2008 al 2017. Michael Bonaventure, proveniente da Edimburgo, studi classici soprattutto verso l'organo e poi la scelta di intraprendere il viaggio verso l'avanguardia. Anche la prossima settimana ascolteremo qualcosa di Michael Bonaventure, ma rimaniamo nella Nesplay Sounds Group e label, mentre voglio menzionare una prossima uscita molto interessante riguardante la scena del Libano, una cosa che mi incuriosisce alquanto e che naturalmente devo a Raffaele un ulteriore ringraziamento. Noi intanto ci sgustiamo questo Electroacoustic Music in Latin America, che appunto fa intuire a cosa andremo incontro, partiture sperimentale ma in parte anche acustiche, proveniente dal continente sudamericano. Questa sera una lunga traccia appartenente a, naturalmente, a un musicista sconosciuto che Raffaele ci aiuterà a conoscere meglio. Si chiama Knop e la traccia è FF5RGTR555. Anche qui ci spingiamo in territori particolarmente coraggiosi, come si può intuire da questa lunga traccia. Onda Rossa 87.9, prove tecniche di trasmissione.